Questo è un audiolibro realizzato per il progetto LibriVox. Libera i libri con la tua voce. Questo audiolibro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, attribuzione non commerciale, condividi allo stesso modo. Audiolibro registrato da Marzia, marzia@cumaves.it. Che cosa è la mafia? Di Gaetano Mosca. Capitolo 9. Dicono alcuni che è necessario togliere il parlamentarismo, levare ogni autorità agli elementi rappresentativi perché in Sicilia si è sradicata la mafia. E scrivono, dicono altri, che è il governo che in Sicilia coltiva e mantiene la mafia, perché senza di essa non potrebbe avere quella maggioranza dei pretoriani reclutati fra i deputati del Mezzogiorno con la quale schiaccia la rappresentanza delle regioni più civili e colte del nord. Credo esagerazione l'una, esagerazione l'altra. La Sicilia non è così corrotta che la mafia sia l'unica forza elettorale viva. I governi che vollero poterono, come accade durante le prefetture di Gera e Malosardi, combattere senza quartieri mafiosi, e pochissimi voti della deputazione siciliana perciò si spostarono e da ministeriali divennero oppositori. E non mi pare dubbio che un governo che strenuamente, sistematicamente, accortamente avversasse le cosche di facinorosi d'ogni genere finirebbe con l'avere nella deputazione dell'isola la stessa maggioranza che si può raccogliere accordando una semitolleranza a tutti gli elementi impuri. L'opinione pubblica siciliana ha secondato sempre le autorità che hanno voluto compiere un'opera seria di epurazione sociale ed ha neutralizzato parecchie volte le mene degli interessati ad ostacolare l'azione risanatrice dei funzionari governativi, come si vede specialmente all'epoca della prefettura Malosardi. La giuria, che è il corpo che fornisce l'indice migliore dei sentimenti medii, per di così, di una popolazione, negli ultimi decenni ha funzionato in Sicilia abbastanza bene. Forse fra i giurati siciliani ce n'è una parte leggermente intinta di mafiosità, ma il complesso è tale che i loro verdetti, quando si tratta di reati gravi come la grassazione, il furto, l'assassinio, non sono quasi mai influenzati dall'omertà o dalla paura. Intere bande di briganti famosi, come i briganti Maurini, cosche mafiose pericolosissime e sanguinarie, come quella che prese il nome dai fratelli Amoroso, sono state condannate alle pene più gravi che loro era possibile infliggere dai giurati di Palermo. Ma disgraziatamente, perché il male continui basta la fiaccona, il lasciare andare, il far come tutti han fatto, mentre per guarirlo occorre energia, solerzia, accorgimento di una cura lunga e perseverante che richiede molto tempo, quel tempo che manca così spesso ai nostri ministri ed anche ai funzionari mandati a reggere le cose dell'isola. I prefetti di questori sono in Sicilia di passaggio ed in generale aspirano soprattutto a non avere troppi fastidi nel periodo, possibilmente breve, che vi debbono passare. Essi devono e vogliono contentare i loro superiori diretti, cioè il ministro ed il sottosegretario di Stato per l'interno. Questi non mancano certo di impartire loro ordini, di dare istruzioni, di fare raccomandazioni, in base alle quali il funzionario locale dovrebbe curare che le leggi fossero osservate, le amministrazioni comunali e delle opere pie epurate, i facinorosi tenuti a posto, l'ordine e la sicurezza pubblica tutelati, i deputati amici sostenuti e gli avversari del ministero ostacolati nella relazione. Fare tutte queste cose in una volta, in pochi mesi, senza suscitare clamori ed attriti, è difficile. Il funzionario presto comprende che, se vuole rompere i compromessi coi facinorosi per quel che riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico, il risultato immediato sarà un aumento momentaneo dei reati comuni. Che, se vuole combattere i soliti onorevoli usi a trescare con le cosche mafiose, portando contro di loro candidati che si appoggiano esclusivamente sugli elementi onesti, dovrà intanto essere esposto alle trame e alle calunnie che si ordiranno contro di lui a Roma, e che, se non riesce, sarà addossata a lui la responsabilità dell'insuccesso. In questa condizione di cose, per poco che sia di coscienza elastica, prende subito il suo partito, esegue una parte sola del programma assegnatogli, quella che egli giudica più indispensabile dal punto di vista del suo benestare e della sua carriera, e mette da canto i sermoni morali. Quindi, usando dei mezzi consueti, che sono sempre più spicci e più facili, regola la sua attività in maniera che dalle urne vengano fuori i nomi dei soliti onorevoli e che non accada intanto una serie di quei grossi reati che allarmano la gente e fanno parlare i giornali. E per raggiungere questi scopi mantiene, quando non li crea, i soliti rapporti fra autorità e facinorosi, sapendo benissimo che per un risultato momentaneo incimprinisce la piaga che travaglia la provincia, ma sapendo pure che toccherà presto al suo successore la bega di curarla. Che se poi il funzionario è un uomo di coscienza elevata, di quelli che credono che oltre ai doveri verso se stesso e verso il gabinetto che ha il potere, ci sia per lui anche un dovere verso la società, se sente un po' di compassione per la regione dove egli è chiamato a reggere il suo ufficio, allora concentra i suoi sforzi nel combattere uno solo dei deputati protettori dei disonesti e dei facinorosi, nel distruggere una singola cosca di mafiosi che egli giudica più pericolosa delle altre. Cerca in una parola di lasciare una benefica traccia del suo passaggio, strappando a qualcuna delle spine che affliggono la provincia. Tanto sa benissimo che se si provasse a svellerle tutte, altro risultato non conseguirebbe che quello di insanguinarsi inutilmente le mani. E nel caso difficilissimo che riuscisse, altro premio non avrebbe che quello di lasciare ai prefetti, ai questori dell'avvenire, le rose da cogliere.